più duro, mi serve stare lontano, lontano da te. Si te ne ho dette di cazzate, diglielo pure alle tue amiche, quelle che fanno paura, paura anche a te. E la sigaretta vorrei non finisse più. Quante notti in bianco dentro un calice, forse non ci andremo più io e te a Los Angeles. Sai quando ridi ma in realtà vorresti piangere, l'ultimo drink e torno a casa senza te. Se fosse sul palmo della mia mano, ma se lo stringo soltanto un drink vuoto cenere. Dici che sono bravo solo quando dormo, un altro euro, un altro giorno, colpa di quello che mi gira attorno. Sono rimasto sottofondo, senza senno, senza sonno. L.A. sto volando posto 1A con lei. Tu rimani con qualcuno là, ok. Se la vi la mia vita brucia in fretta come una sigla. La sigaretta vorrei non finisse più. Quante notti in bianco dentro un calice, forse non ci andremo più io e te a Los Angeles. Sai quando ridi ma in realtà vorresti piangere, l'ultimo drink e torno a casa senza te. Da-da. Chiederti come stai, ma poi non lo faccio mai. Sfidando la notte, cercando risposte, lo sai, molto meglio non averle mai. Quante notti in bianco dentro un calice, forse non ci andremo più io e te a Los Angeles. Sai quando ridi ma in realtà vorresti piangere, l'ultimo drink e torno a casa senza te. Da-da.